Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Mio padre girò uno sguardo ombrato d'allarme fra Stella e me. Poi, subito distraendosi di proposito dalla nostra zuffa misteriosa, come niente fosse stato, si appressò al divano e, lasciando cadere lenzuola e coperti al lato di Stella, gli annunciò con franca animazione: «Dunque, è tutto fatto. Ho preparato anche la valigia». Quindi, verso di me, con una voce diversa, intonata una superbia autoritaria: «A proposito, Arturo, t'ho cercato per dirtelo, ma tu non eri in camera. Parto domani mattina col primo vapore». Domattina! Fino a quest'ultima parola io mi ero rifiutato di comprendere l'imminenza di questa realtà che travolgeva il domani e tutti gli altri miei giorni futuri nella sua rovina tempestosa. Fissai mio padre con occhi sperduti, dopodiché egli m'avvisò ancora, aggrottando la fronte: «È bene salutarci adesso, perché domattina io non ne avrò il tempo». La mia voce proruppe, soffocata dalla rivolta: «Parti assieme a lui!» «Ciò non ti riguarda», rispose mio padre. «Non puoi farlo, no, non puoi farlo!» Mio padre mi dette un'occhiata di sbieco, sovrastandomi col suo splendore corrusco. «Io», mi rispose, «parto con chi mi pare, con buona sopportazione de usted». Feci un passo, e sfiorato appena Stella con uno sguardo di spregio, quasi la sua presenza per me fosse cosa da ignorarsi, mi misi di fronte a lui. «Io tengo 16 anni!» esclamai. «Tu hai promesso che, quando mi facevo uomo, avresti viaggiato assieme a me, e adesso è venuta quell'epoca. Io tengo l'età, sono uomo!» «Ah, me ne rallegro», disse mio padre, indi spostandosi verso l'estremità del camino e là appoggiandosi una mano in tasca con accento di calma sforzata, mi invitò: «Vieni qua, Arturo, qua davanti a me, per favore». Certo, egli temeva che di nuovo io gli offendessi Stella. Sdegnoso, io gli ubbidii, ed egli allora, fissandomi, disse: «Vogliamo separarci con le buone maniere, Arturo?» Io corrugai la fronte senza rispondergli. «Beh, in tal caso», egli proseguì, dominando a malapena la sua burrascosa impazienza, «ti prego di rimandare l'argomento ad altra occasione e di ritirarti di sopra, se non ti spiace. Siamo d'accordo quanto alla promessa che dici. Si intende, ogni promessa è sacra fra gentiluomini, ma non mi sembra questa l'ora migliore per discorrerne, di mezzanotte, mentre sto per partire. Ne riparleremo con più calma al mio ritorno». Le mie pupille, avide di amarezza, andarono al suo polso sinistro, spoglio dell'orologio, e dissi: «Tu non tieni nessuna fede, né alle promesse, né anche ai giuramenti. Tu hai tradito pure l'amicizia. Ormai ti conosco, che sei un traditore». «Beh, e se tu mi conosci da ora», disse facendo 2 o 3 passi innanzi a me, «io invece ti conosco già da un pezzo, moretto mio». «No, tu non mi conosci per niente», mormorai. «Nessuno mi conosce a me». «Oh, davvero, mio grande sconosciuto! E invece io ti conosco proprio ben assai, ti conosco sulla palma della mia mano. E anzi, adesso, qua, davanti ai testimoni, voglio dirti quello che sei. E dillo, chi se ne importa?» Egli si fermò a un passo da me in una posa guerresca e spietata. «Bene», proferì. «Dunque io qua attesto, e tutto il mondo ha da sapere, che tu, Arturo, sei geloso. Anzi, con più precisione diremo che la vostra signoria si merita il titolo di geloso universale. Ella, infatti, oh grande Hidalgo, oh Don Giovanni, oh re di cuori, di colpo si incapriccia di tutti quanti, e va lanciando a tutti quanti i suoi strali come amore, figlio di Venere, e se non ci coglie, poi si ingelosisce. Secondo la sua pretesa, il mondo intero dovrebbe fare l'innamorato di Arturo Gerace. Ma per la parte sua, poi, la vostra signoria non ama nessuno, dato che siete un capriccioso e un vanitoso e un egoista e un furfante, preso unicamente dalle vostre bellezze. E adesso vattene a dormire. Fila!» «Me ne vado. Sì, io dissi con voce bassa. Poi, con voce sempre più alta, cupa, disperata, ripetei: «Sì, me ne vado e me ne voglio scordare di te per sempre. Ascolta, questa è l'ultima parola mia». «Benissimo», egli disse. «Siamo d'accordo. È l'ultima parola». A precipizio me ne andai. Quando fui nella mia camera, non mi curai neppure di accendere la luce. Mi buttai sul letto, con la faccia contro il guanciale, e rimasi parecchi minuti così, aspettando un'apocalisse, o un terremoto, o una qualsiasi rovina cosmica che risolvesse questa notte odiosa. Sometimes I sit and wonder as I gaze out over yonder. I'm so crazy about you, so crazy, and it's true. I think you're wonderful. Don't change. La mia stessa volontà era di consumare tutta la notte sveglio, ma insieme avrei voluto cadere in un grande letargo che durasse giorni, mesi e magari secoli, come nelle favole. Le palpebre mi bruciavano, ma non avevo sonno. Dopo un po' accesi la luce e scrissi una lettera per mio padre. Non ho più nella memoria, naturalmente, il testo preciso di quella lettera. All'incirca essa, in breve, diceva così: «Caro pa, l'ultima mia parola che adesso ti scrivo è questa. Che hai fatto male stasera se davvero hai creduto che io desiderassi ancora di viaggiare assieme a te, come quando ero piccolo. A quell'epoca forse era vero che lo desideravo, ma ormai questo desiderio è finito. E sbagli pure se credi che io abbia invidia dei tuoi amici. Da ragazzino forse era vero che li invidiavo, ma ormai ho conosciuto che sono dei mostri delinquenti e dei fetenti orribili. E spero che una volta o l'altra, là nelle città dove ti trovi con loro, uno di loro ti uccida, perché io ti odio e preferirei essere nato senza padre e senza madre e senza nessuno. Addio, Arturo». Mi ributtai sul letto dove mi addormentai pian piano con la luce accesa. Mi risvegliai di soprassalto che ancora non si era fatto giorno, e rivedendo la mia lettera spiegata sul tavolino, la presi e me la nascosi sotto il maglione che mi ero lasciato addosso. Poi ritornai sul letto e, spenta la luce, mi avvolsi tutto nella coperta perché sentivo molto freddo. D'un tratto per il corridoio udii un passo lungo e frettoloso che cercava di far piano. L'uscio fu sospinto discretamente, senza rumore, e mio padre entrò nella mia stanza, richiudendosi l'uscio alle spalle. Serrai a precipizio le palpebre per fingere di dormire. Egli mi scosse un poco, facendo con le labbra il solito piccolo fischio che usava da sempre quando voleva svegliarmi alla mattina. Poi chiamò a voce bassa: «Arturo, Arturo», ripeté. Aprì gli occhi, duri e fissi, senza guardarlo. «Io», egli disse, «fra pochi minuti parto». Non battei ciglio, né mi mossi. Pur senza guardarlo, intravedevo nella luce ancora diaccia dell'alba il colore dei suoi occhi turchini. Si avvertiva in lui un'ansietà incerta che nell'inquieta e nervosa allegria della partenza lo teneva sospeso sopra di me, dividendo il suo cuore. Il suo fiato mi era vicino con un sapore fresco, e mi pareva che nella mia cameretta chiusa egli portasse intorno a sé, come un secondo corpo fatto d'aria, tutta la freschezza gelata e festante delle mattine invernali sui moli, fra la vivacità degli imbarchi. «Ehi, ascolta, Arturo», insisté, sempre parlando sommesso. «Io parto fra poco. Gli altri li ho lasciati dormire, tanto li ho già salutati ieri sera. Sono venuto a salutarti». «Va bene», dissi. «Addio». «Quell'amico mio», egli riprese, «mi ha già preceduto al porto per suo conto, ma aspetta sul piroscafo. Scendo io solo con la carrozza». Si udiva il cavallo sotto al cancello battere le zampe. «La carrozza», egli seguitò, «è già da basso, pronta». Io mi voltai un poco dentro la coperta e in tale movimento mi sentii, sotto il maglione, grattare leggermente la pelle dalla lettera che tenevo là nascosta. Ecco, questo era il momento, o mai più, di dargli la mia lettera. Ma non seppi dargliela. «Beh, e allora che fai, Arturo?» egli domandò. «Non ti alzi? Non vieni ad accompagnarmi come al solito in carrozza giù al porto?» «No», gli risposi. «Non vuoi?» egli ridomandò in un tono invitante e coruccioso, fra di rimprovero, di sorriso e di pentimento. Ma si sentivano nel tempo stesso i suoi nervi vibrare per l'impazienza di andarsene via, giù verso il porto, al piroscafo dove lo aspettava Stella. «No», gli ripetei, e mi rigirai sul cuscino nel gesto malcerto di voltargli le spalle, come una persona annoiata che vuole essere lasciata dormire. I miei occhi sfuggenti lo scorsero che ancora si indugiava verso di me, con la fronte delusa su cui, nel chinarsi, gli spioveva qualche ciocca scomposta. E in quel momento, posando lo sguardo su quelle ciocche vicine, ma vidi che fra il biondo dei suoi capelli c'erano alcuni capelli bianchi. «Allora arrivederci», egli disse, mostrandosi disinvolto. «Arrivederci», gli risposi, e mentre lui spariva dalla camera pensai: «Arrivederci, e invece non ci rivedremo mai più». Mi tenni chiuso dentro la mia camera come fossi morto e per diverse ore nessuno si occupò di me. Poi sul pomeriggio s'udì bussare e la matrigna, con una voce incerta e fina, mi domandò se non volessi mangiare e se mi sentissi male e perché non mi ero alzato. La scacciai gridando con male parole. Tuttavia, qualche ora dopo, s'udì bussare un'altra volta e la medesima voce, diventata ancora più incerta e più fina, mi avvertì che se volevo, là fuori dell'uscio, su una sedia, c'era la mia merenda. Quasi urlando risposi che non desideravo nulla, né mangiare né bere, solo di essere lasciato in pace. Per la prima volta nella mia vita, benché non fossi malato, non avevo fame. Ogni tanto mi assopivo, ma subito mi riscuotevo di soprassalto, con la sensazione di un'orribile scossa o di un frastuono spaventoso. E immediatamente mi rendevo conto che in realtà non c'era stato nulla, né frastuoni né terremoti. Era il dolore, che usava quegli artifici maligni per tenermi sveglio e non lasciarmi mai. Esso non mi lasciò mai, difatti, per tutta la giornata. Era la prima volta da quando vivevo che conoscevo veramente il dolore, o almeno credetti di conoscerlo. Ormai sapevo, con risolutezza estrema, che queste erano le ultime ore che passavo sull'isola e che il primo passo che avrei fatto oltre la soglia della mia camera sarebbe stato per andarmene via. Perciò, forse, mi ostinavo a rimanere rinchiuso nella mia camera, per rimandare almeno di qualche ora quel passo irrimediabile e minaccioso. Certo, era anche il digiuno che mi indeboliva. A furia di pensare a mio padre, finì per illudermi che lui pure, allo stesso modo, in quel momento, pensasse a me, e che mentre io chiamavo «Pa», anche lui, da dove si trovava, chiamasse fra sé «Arturo, mio caro Moro», o qualcosa di simile. Mi svegliai come il giorno avanti verso l'alba, e così ebbe principio questa seconda mattinata che doveva svolgersi per me peggiore assai della prima. Subito al mio risveglio, ricordandomi che oggi era il mio compleanno, provai un sentimento festante nella convinzione più che mai certa dell'arrivo di William Gerace. In attesa rimasi allo stesso modo del giorno precedente, prigioniero volontario della mia camera, con l'uscio inchiavato a doppio giro. Però stamattina questa prigionia era piuttosto per una scaramanzia che per altro, e prevedevo imminente la mia uscita gloriosa. Avevo infatti una specie di magica sicurezza che mio padre arriverebbe col primo vapore, il quale toccava procida alle 8 precise. Ma come dalla mia finestra, dove stavo di vedetta, udì battere le 9 senza alcuna novità, di schianto dalla certezza passai al dubbio che egli non solo non arriverebbe neppure col secondo vapore delle 10, ma non arriverebbe affatto. Per la prima volta da quando ero sulla terra mi parve di desiderare sinceramente la morte. Suonò mezzogiorno, col solito grande scampanio. Durante tutta la mattinata, per fortuna, nessuno aveva osato importunarmi, ma poco dopo il concerto delle campane, ecco che ancora, come il giorno prima, fu bussato all'uscio con un picchio più leggero ancora di quelli di ieri, quasi impercettibile. Intesi, da quanto facilmente si poteva udire, che dietro l'uscio c'era la matrigna con Carmine. La matrigna, non osando farlo lei stessa, aveva guidato la mano del guaglione a bussare, e adesso gli insegnava, piano, di dirmi la frase «tanti auguri» che egli, ubbidiente, strillandomi ripeté alla sua maniera ostrogota. Una simile attenzione familiare in quel momento mi rivoltò peggio di un'ingiuria atroce, e senz'altra risposta sferrai un calcio all'uscio, per significare chiaramente che non volevo auguri e che mandavo tutti all'inferno. Thank you. Per circa un'altra ora e mezza nessuno si fece più vivo, ma doveva mancare poco alle 2 del pomeriggio che di nuovo si riudì quell'ostinato bussare all'uscio. Stavolta era lei che bussava, e più forte, quasi brutalmente. Non detti segno di aver udito. E allora, con una voce malcerta, quasi di accia per lo sgomento e il ritegno, essa chiamò: «Artù, che fai? Ma perché non t'alzi? Ho preparato la pizza dolce come l'altro anno per la festa tua!» Per quanto io sempre avessi giudicato che in fondo essa era stupida nel cervello, mai la sua stupidità m'era apparsa come stavolta, incommensurabile, peggio dell'infinito. Come poteva venire a parlarmi di cose futili quali la pizza dolce in un momento così tragico? «Vattene, stupida, idiota!» le gridai, e in una ferocia disperata spalancai l'uscio con fracasso. Essa era lì, reggendo in braccio il guaglione, le labbra tremanti, bianca come una morta. Notai subito, con la vista resa ancora più lucida dal furore, che s'era messa la famosa gonna di velluto e aveva vestito a festa anche Carmine, certo per celebrare degnamente la giornata. Tutto ciò, invece di addolcirmi, inasprì il mio rancore. Intanto, non so quale impulso di amarezza estrema mi fece correre per prima cosa verso la camera di mio padre. Febbrilmente io mi mossi un poco in quella camera deserta, sotto gli occhi miseri e turbati della matrigna che mi aveva seguito sulla soglia. «Lo sai, Cocchi, è partito!» le gridai allora. «Non è partito solo, come t'ha fatto credere! È partito con Stella!» Essa mi riguardava, cercando nel tempo stesso col capo di schivare Carmine, il quale, innervosito dal mio contegno stravagante, per farsi coraggio si sfogava a giocare con i suoi ricci. Io seguitai, nel mio accanimento vendicativo da vero ragazzino: «Lui preferisce Stella a te!» Inquieta, ella s'era avanzata nella camera e deponeva Carmine sul grande letto. «E chi è Stella?» «È una di qui!» si informò coi tratti subitamente scomposti da una ferocia minacciosa e barbara. E si capì dalla sua domanda che al nome da lei udito ora per la prima volta riteneva che Stella fosse una donna. Ma non appena ebbe inteso da me che si trattava di un certo Tonino Stella, il suo volto si ridistese e si tinse di sollievo. All'evidenza di queste sue cangianti emozioni, io sentì ritornare in me anche un'altra, passata, pure se non mai confessata, gelosia. «Ah!» le gridai pieno di dolore, sconvolto da una doppia gelosia. «Lui però lo ama, Stella, lo ama!» «Lo ama!» essa ripeté, e la sua voce era inespressiva, come un'eco innocente e fredda nel ripetere questa parola. Appena l'ebbe pronunciata, però, ella si interruppe, con la bocca titubante, in una scossa di pudore repentino. I suoi occhi corsero un momento a scrutarmi, interroganti e sospesi. Poi, rapidi, si torsero da un'altra parte. «Sì, lo ama, lo ama! E gliene importa più assai di lui che di te, e di Carmine, e di me, e di tutti!» io ripresi come un forsennato. Essa mosse le labbra a protestare, ma tacque in una smorfia debole e penosa che le dava un'espressione di infanzia precocemente matura. Per un poco, sfuggendomi, sembrò rinchiudersi tutta in sé, simile a un passero malato che per difesa si raccoglie nelle sue piume. Poi si risentì e mi si rivolse, quasi brutale. «Tu!» esclamò in un respiro tremante. «Non dici parole giuste!» Intanto sogguardava Carmine, forse timorosa che egli, col suo cervello di un anno, potesse aver compreso le mie pessime parole contro il padre. «Quello Stella là, che è partito con lui!» seguitò Proterva, corrugando i sopraccigli. «Mica può mai essere uguale a un parente suo! Quella è un'amicizia!» D'un tratto alzò un poco la spalla. «Quella è un'altra cosa!» terminò con una curiosa aria di scetticismo popolano fra l'indulgenza e lo sprezzo. A questo punto una maturità luminosa, quasi pomposa, sembrò rivestirla. E tacque, altera e calma, coi sopraccigli corrugati, come per farmi intendere che l'argomento era chiuso. Allora, in un trasporto pazzo, io le gridai: «Ma tu lo ami?» Con le guance divorate da un rossore scuro, simile a una vera bruciatura che le piagasse la pelle, essa mi stava di fronte, dritta, in piedi, al di là del grande letto che separava le nostre due persone. «Che dici?» ripeté due o tre volte. «Lui è il marito mio!» Credeva forse che io l'accusassi di non amare mio padre, e invece io, sciagurato me, era del contrario che l'accusavo. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.